ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge Akutagawa Ryunosuke. Nel bosco. Racconto. Di un boscaiolo che risponde al giudice. Sì, sono stato io a trovare quel cadavere. Stamattina, come sempre, sono andato alla montagna dietro casa mia per tagliare dei cipressi. Allora, nel bosco, tra le montagne, ho trovato quel cadavere. Dove l'ho trovato? Pressappoco alla distanza di 500 metri dalla strada per Yamashina. È un posto solitario dove si trovano magri cipressi in mezzo ai bambù. Il cadavere, con il kimono blu e la mitra, di fattura elegante, giaceva supino. Aveva ricevuto un solo colpo. Ma si trattava di una ferita al cuore. No, non perdeva più sangue. Anche la ferita sembrava già secca e ad essa si era attaccata una mosca cavallina con insistenza, come non sentisse nemmeno il mio passo. Non c'era la spada o qualcos'altro in giro? No, non c'era niente. Solo alla base di un cipresso c'era una corda. Poi, oltre alla corda c'era anche un pettine. Intorno al cadavere c'erano soltanto queste due cose, però dal fatto che l'erba e le foglie di bambù erano calpestate dappertutto, immagino che quell'uomo prima di morire debba aver reagito duramente. Non c'era un cavallo. In quel posto i cavalli non riescono mica ad avvicinarsi. Comunque bisogna attraversare un bosco per arrivare al sentiero dove possono passare. Racconto. Di un bonzo itinerante che risponde al giudice. Quell'uomo, ora cadavere, certamente l'ho incontrato. Ieri forse era mezzogiorno, mentre io andavo a Yamashina partendo da Sekiyama, quell'uomo veniva a piedi verso Sekiyama insieme con una donna, a cavallo. Non ho potuto vederla in faccia perché portava un velo. Quel poco che ho potuto vedere erano i colori del suo kimono, che sembravano autunnali. Il cavallo poteva essere storno e la sua criniera era rasata. L'altezza? Ma era forse 130 centimetri. Essendo un predicatore, non me ne intendo molto. L'uomo, sì, aveva non solo una spada, ma anche un arco. In particolare mi ricordo ancora molto bene che c'erano 20 frecce da combattimento nella faretra laccata nera. Non pensavo affatto che quell'uomo sarebbe finito in questo modo. Certo, la sorte di un uomo imprevedibile. Comunque, povero lui, non so cosa dire. Racconto. Di un informatore che risponde al giudice. L'uomo che ho arrestato, è certamente il famoso bandito Tajumaru. Quando l'ho arrestato, forse era caduto da cavallo. Gemeva dolorosamente sul ponte dalla parte di Avata. Di che ora si trattava? Ieri sera. Non molto tardi, come l'altra volta, quando non riuscì a prenderlo. Aveva lo stesso kimono blu e la spada con delle incisioni, ma ora, come vedete, oltre alla spada, ha anche l'equipaggiamento d'arciere. Lo stesso che aveva l'uomo ora cadavere. Allora deve essere Tajumaru quello che l'ha ucciso. Suppongo che l'arco fasciato di cuoio, la faretra laccata nera e 17 frecce con le piume di falco era tutto quello che quell'uomo aveva con sé. Sì, aveva, anche un cavallo che, come dite, era storno con la criniera rasata. Era proprio il suo destino cadere da quella bestia. Il cavallo stava brucando lungo la strada e trascinava le lunghe redini. Questo Tajumaru ha un debole per le donne, più degli altri ladri della città. Nell'autunno dell'anno scorso, quando furono trovate uccise una donna sposata e la sua giovanissima serva, si diceva che fosse lui il colpevole. Se fosse stato lui a uccidere quell'uomo, non si sa cosa avrebbe fatto alla donna che stava sul cavallo storno. Non vorrei essere troppo indiscreto, ma pregherei di considerare anche questo elemento. Racconto. Di un'anziana che risponde al giudice. Sì, quel cadavere è l'uomo che mia figlia sposò. No, egli non era della capitale, era un samurai del capoluogo della provincia di Wakasa. Si chiamava Takehiro di Kanazawa e aveva 26 anni. No, avendo un carattere così gentile, non poteva essere oggetto di qualche vendetta. Mia figlia. Il suo nome è Masako e ha 19 anni. Sebbene ella abbia un carattere forte quanto quello di un uomo, non ha mai avuto una relazione con uomini tranne che con Takehiro. La sua piccola faccia ovale è di carnagione scura e all'angolo dell'occhio ha un neo. Ieri Takehiro era partito con mia figlia per Wakasa. Ma che disgrazia finire in questo modo. Ora però sono veramente in pensiero per mia figlia. Potrei rassegnarmi per mio genero, ma lei dove si trova? Vi prego, con tutto il cuore. Cercate mia figlia fino in capo al mondo. Quanto odio quel ladro che si chiama Tajumaru. Non solo mio genero, ma anche mia figlia. Confessione. Di Tajumaru. Sono stato io a uccidere quell'uomo, ma non ho ucciso la donna. Allora dove è andata? Non lo so nemmeno io. Anche se mi torturaste, non potrei rispondere quello che non so. Poi, ormai non ho intenzione di nascondere niente. Ho incontrato ieri quella coppia. Poco dopo mezzogiorno. In quel momento un soffio di vento ha sollevato il velo della donna facendo appena vedere il suo viso. Appena. Tanto fugacemente da farmi credere di aver visto una santa buddista. Proprio in quell'attimo ho deciso di possedere la donna anche se avessi dovuto uccidere l'uomo. No, non è difficile come pensate uccidere un uomo. Per possedere una donna il suo uomo sarà sempre ucciso in qualche modo. Solo che io uso la spada. Voi usate il potere, il denaro, le parole suadenti, certo. Così non si vede il sangue né un morto. Ma lo uccidete lo stesso. Giudicare chi è il più colpevole, io o voi, non sarebbe facile. Se però potessi possedere una donna senza uccidere il suo uomo non avrei nulla da dire. Anzi, quella volta avevo deciso di prenderla possibilmente senza uccidere. Dunque non potevo mettermi in azione sulla strada per Yamashina. Così ho cercato di farli andare verso la montagna. Non è difficile anche questo tipo di manovra. Quando li ho incontrati per strada e mi sono messo a camminare con loro, ho raccontato che nella montagna davanti a noi c'erano delle rovine dove avevo trovato tanti specchi e tante spade che avevo poi nascosto nel bosco dietro la montagna e che avrei venduto a buon prezzo se qualcuno avesse voluto comprarli. A poco, l'uomo si era lasciato convincere. Non è terribile il potere dell'avidità. Quando siamo arrivati davanti al bosco, ho detto loro di venire a vedere il tesoro. L'uomo non poteva non essere d'accordo, ma la donna, senza nemmeno scendere dal cavallo, ha detto che avrebbe aspettato. Era abbastanza logico che ella dicesse così, poiché il bosco era molto fitto. Per la verità, lo avevo già previsto e sono entrato nel bosco con l'uomo. Per un po' c'erano solo bambù, ma dopo 50 metri apparsa una macchia di cipressi. Non c'era nessun posto più adatto per portare a termine il mio piano. Mentre andavo avanti, aprendomi la via tra i rami, gli ho detto di aver nascosto il tesoro sotto un cipresso. L'uomo si è precipitato verso i magri cipressi, dove i bambù si facevano più radi, e di colpo l'ho aggredito. Aveva una notevole forza, adeguata a uno che porta la spada, ma essendo sorpreso non ha potuto reagire. Subito si è trovato legato alla base del tronco di un cipresso. La corda. Grazie al mestiere di rapinatore la tengo sempre pronta al mio fianco. Una volta che gli ho riempito la bocca con foglie di bambù, non rimaneva più nessun'altra complicazione. Quando ho finito di sistemare l'uomo, sono tornato dalla donna dicendo che egli si era sentito male e che doveva venire a vederlo. Inutile dire, anche questa trappola ha funzionato. Ella si è tolta il cappello con il velo ed è entrata nel bosco lasciandosi condurre per mano da me. Ma quando è arrivata e lo ha visto legato in fondo al cipresso, sorprendendomi, ha sguainato il pugnale lucente che teneva in seno. Non avevo visto mai nessuna donna così audace. Se in quel momento non fossi stato attento, mi avrebbe fatto fuori con un sol colpo al fianco. Ma sono Tajumaru e, senza trarre la spada, sono riuscito a far cadere il suo pugnale. Per quanto la donna fosse audace, le era sfuggita la preda. Alla fine ho potuto possederla come avevo desiderato, senza uccidere l'uomo. Senza uccidere l'uomo. Così. Anzi, non ne ho avuto nemmeno l'intenzione. Ma quando ho deciso di fuggire dal bosco, la donna, buttata a terra piangendo, all'improvviso afferrato il mio braccio come una pazza, gridando affannosamente, diceva che portare il suo disonore davanti a due uomini era peggio che morire, e quindi chiedeva che uno di noi due morisse. È arrivata a esprimere il desiderio di vivere con l'uomo rimasto vivo. Anche questo lo diceva ansimando. In quell'istante mi è venuta una grande voglia di uccidere l'uomo. Se vi dico questo, mi giudicate certamente più brutale di chiunque altro, ma è perché non l'avete vista in faccia. Che occhi focosi! In quel momento, quando li ho incontrati, ho desiderato sposarla, sposarla. Ho pensato solo questo. Non era un semplice piacere sessuale, come si potrebbe credere. Se non avessi voluto altro che un piacere sessuale, sarei scappato di certo anche prendendola a calci. Allora sì che quell'uomo non sarebbe finito sotto la mia spada. Ma quando ho osservato il viso di lei, in mezzo al bosco poco luminoso, ho deciso di non andare via da quel posto finché non lo avessi ucciso. Per ucciderlo però non volevo essere vigliacco. Ho slegato la corda e gli ho ordinato un duello con la spada. Egli, infuriato, sguainata una grossa spada, si è lanciato furiosamente contro di me senza dire una parola. La mia spada ha toccato il suo cuore al 23° assalto. 23°! Non lo dimenticate. Io lo ammiro ancora adesso, soltanto per questo fatto. Sulla terra è l'unico che mi ha resistito per più di 20 assalti. Quando è caduto, mi sono voltata verso la donna, tenendo in mano la spada sporca di sangue. Allora la donna era sparita. Per trovarla ho cercato tra i cipressi, ma nemmeno sulle foglie di bambù c'era la minima traccia di lei, e se tendevo gli orecchi sentivo solo l'agonia nella gola dell'uomo. Può darsi che appena cominciato il duello sia scappata in mezzo al bosco per chiedere aiuto. Quando ho pensato questo, ho perso la calma e in tutta fretta ho rubato all'uomo la spada e l'arco e sono tornato sul sentiero di prima, dove si trovava ancora il cavallo della donna. Raccontare quello che è avvenuto dopo sarebbe superfluo. Ah, solo una cosa. Prima di entrare in città mi sono disfatto della sua spada. La mia confessione è tutta qui. Poiché sono consapevole che il mio capo sarà appeso al ramo di un albero di fronte alla prigione, sarei lieto se mi condannaste alla massima pena. Confessione. Di una donna arrivata al tempo di Kiyomizu. L'uomo, in un kimono blu scuro, una volta che mi ha posseduta, ha riso con disprezzo guardando mio marito legato. Impulsivamente mi sono gettata contro di lui. No, ho solo cercato di gettarmi contro di lui. Ma in un attimo l'uomo mi ha buttata a terra a calci. Proprio in quel momento ho visto negli occhi di mio marito nascere un bagliore atroce. Atroce. Quando mi tornano in mente quegli occhi mi viene ancora un brivido. Mio marito, che non riusciva a dire una sola parola, ha mostrato tutto il cuore attraverso i suoi occhi. Il bagliore però non era né di rabbia né di tristezza, era una gelida luce che mi disprezzava. Abbattuta non dai calci, ma dalla luce di quegli occhi, ho gridato qualcosa e sono svenuta. Quando mi sono ripresa non c'era più l'uomo dal kimono blu scuro. Era rimasto solo mio marito legato ai piedi del cipresso. Appena ho potuto sedermi sulle foglie di bambù, ho guardato il suo viso, ma il bagliore dei suoi occhi non era cambiato affatto. Come prima vi si leggevano ancora odio, gelido disprezzo. Vergogna, tristezza, rabbia, non so come esprimere quello che sentivo. Mi sono alzata in piedi malamente e mi sono avvicinata a lui. Mio caro, ormai non posso più vivere con voi. Sono pronta a morire, però... Però dovete morire anche voi. Avete visto il mio disonore, non vi posso lasciare vivo da solo. Gliel'ho detto con tutto il mio ardore. Nonostante ciò, egli continuava a fissarmi con disgusto. Ho cercato la spada di mio marito. Non solo la spada, ma anche l'arco che saranno stati presi da quel ladro. Non si trovavano più nel bosco. Per fortuna ho trovato sotto i piedi almeno il pugnale. Quando l'ho alzato, gli ho ripetuto: «Ora prendo la vostra vita e subito dopo vi seguo». A queste parole finalmente ha mosso le sue labbra, ma poiché la sua bocca era riempita di foglie di bambù, non è uscita nessuna voce. Appena ho visto le sue labbra ho capito ugualmente. Con disprezzo mi ha detto: «Uccidimi». Ho infilato a fondo il pugnale nel suo petto attraverso il kimono blu, come se stessi sognando. Forse di nuovo ho perso conoscenza. Quando ho guardato intorno, mio marito, sempre legato, non respirava più. Dal cielo, dove i cipressi stendevano i loro rami tra i bambù, cadeva un filo di luce del tramonto sulla sua faccia pallida. Ho slegato la corda e trattenuto il pianto. Poi cosa ho fatto? Non ho più il coraggio di raccontare. Sì, mi è mancata la forza di morire. Sono così vile che anche quel benevolo santo buddista che mi protegge forse mi ha abbandonata. Ora cosa dovrei fare? Io che ho ucciso mio marito e sono stata posseduta da un bandito. Cosa... Io... Racconto. Di uno spirito che parla attraverso una medium. Una volta che quel bandito è riuscito a possedere mia moglie, seduto accanto a lei, si è messo a confortarla. Io non potevo parlare, Ero legato ai piedi del cipresso. Però tante volte ho cercato di mandarle un segno attraverso gli occhi. Non devi ascoltare quello che dice l'uomo. Non credergli. Ma mia moglie, seduta sulle foglie di bambù, avvilita, si guardava solo insistentemente le ginocchia. Mi è sembrato che ella stesse ascoltandolo con attenzione. Mi torcevo dalla gelosia. Il bandito continuava a parlare senza tregua. Ora che ti sei macchiata sarà difficile andare d'accordo con tuo marito. Non vuoi diventare mia moglie piuttosto che vivere in discordia con lui? Quando ella lo ha sentito, ha alzato il viso, incantata. Non l'avevo mai vista così bella prima di allora. Ma la mia bella moglie, davanti a me, legato, come gli ha risposto? Anche se ormai sono uno che vaga nel buio, ogni volta che mi torna in mente la sua risposta, sento una vampata d'odio. Gli ha detto proprio così: «Portatemi ovunque volete». Se si trattasse solo di questo, non soffrirei tanto come ora in questo buio. Quando ella stava per andare via dal bosco, inebriata, lasciandosi tirare la mano dal bandito, all'improvviso ha perso colore in viso e mi ha indicato ai piedi del cipresso: «Uccidete quell'uomo finché egli sarà vivo, non potrò venire con voi». Ha gridato ripetutamente, come una pazza: «Uccidete quell'uomo!» Ancora adesso questa parola, simile a una tempesta, mi butta giù, lontano, in fondo, nel buio. Quando mai parola è stata così maledetta? Quando mai? Quando l'ha sentita, anche il bandito ha perso il colore del suo viso. Gridandogli: «Uccidete quell'uomo!» Ella ha afferrato il suo braccio. Ed egli, fissando il suo sguardo, non ha detto che mi avrebbe ucciso, né che mi avrebbe lasciato vivo. Poi, in un baleno, ella era sulle foglie di bambù, buttata giù da un calcio, mentre egli incrociava le braccia in silenzio, iniziando a guardarmi. «Cosa vuoi fare della donna? Ucciderla o salvarla? Basta che tu mi faccia un cenno col capo. La uccido?» Solo per questa frase vorrei perdonare la colpa di quel bandito. Mentre esitavo un momento, ella è scappata rapidamente in fondo al bosco, appena dopo aver gridato qualcosa. Immediatamente egli ha cercato di acchiapparla, ma non è riuscito a sfiorarle nemmeno una manica. Io assistevo a questa scena come a una visione. Quando è scomparsa, egli ha preso la spada e l'arco e ha tagliato solo un punto della corda intorno a me. «Ora tocca a me», ha bisbigliato, scomparendo dal bosco. È calato il silenzio tutto intorno. No, è rimasto ancora il pianto di qualcuno. Ho teso gli orecchi mentre slegavo la corda. Forse era proprio il mio pianto. Finalmente ho alzato il mio corpo, stanco, dalla base del cipresso. Sotto i miei piedi luccicava il pugnale lasciato da mia moglie. L'ho preso e l'ho infilato nel mio cuore, deciso. Mi veniva su dalla gola un flusso denso, ma non sentivo nessun dolore. Man mano che il cuore perdeva il suo calore, aumentava il silenzio intorno e... che silenzio! Nemmeno un uccello cinguettava in quel cielo sopra il bosco nascosto dietro la montagna. Ero steso là, in mezzo al silenzio profondo. In quel momento mi si è avvicinato qualcuno trattenendo i passi. Ho cercato di individuarlo, ma era già il buio. Qualcuno, la sua mano, in silenzio, mi ha strappato il pugnale dal cuore. Di nuovo dalla gola mi saliva del sangue. Poi, senza ritorno, sono caduto in questo buio.